Mix 24 di Giovanni Minoli. La classifica della nuova guida blu premia con le 5 vele ben 19 località marine e 7 laghi. Piari, stessa spiaggia, stesso mare. Secondo Legambiente Touring Club Italiano, la regina delle spiagge italiane per l'estate 2016 è il lungo e largo arenile di Domus de Maria. Spiaggia. Fa caldo? Sì, troppo. Cioè, stiamo tipo a fa la gola. Fa troppo caldo. Lontano, nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà. Comuni sono Melendugno, Otranto, Polignano a Mare, Castro, passato dalle 4 vele alle 5 vele. Per poterti rivedere. Il caldo, l'estate, ma poi è davvero la stessa spiaggia, stesso mare? E quali sono i mari più belli d'Italia? In base a quali criteri vengono selezionati? Rossella Muroni, presidente nazionale di Legambiente, che come sempre in collaborazione col Touring Club Italiano ha stilato la sua classifica. Dunque, dottoressa Muroni, Domus de Maria, in provincia di Cagliari, è la prima delle vostre classifiche delle località marine. Cos'ha di diverso? Beh, ha saputo coniugare un ambiente naturale eccezionale con una buona gestione territoriale, dalla raccolta differenziata alla mobilità sostenibile, al coinvolgimento degli attori anche economici sul territorio. Quindi non è solo una questione di mare pulito, di bellezza del luogo, ma è anche l'insieme dell'amministrazione, insomma, di com'è il contesto. Assolutamente sì, di come queste bellezze naturali vengono gestite. Noi diciamo sempre ai sindaci delle Cinque Vele, non è sufficiente essere belli, bisogna anche essere seduttivi, attirare il turismo con la qualità ambientale, ecco, che come dimostrato è quello che aiuta di più. Ma quali sono i criteri con cui vengono assegnate le famose bandiere blu? Sono le vele di Legambiente che noi assegniamo su un criterio appunto che riguarda la raccolta differenziata, la produzione locale enogastronomica che viene veicolata attraverso il turismo. I sindaci delle Cinque Vele sono anche molto attenti alla gestione dei litorali e quindi anche degli stabilimenti balneari. Ma quanto può variare, Presidente, da un anno all'altro la qualità del voto, quindi dell'acqua, non lo so, della qualità del posto? Beh, non di moltissimo, anche se ci sono stati dei casi in cui le vele sono state tolte per problemi magari legati alla depurazione locale o a una scelta sbagliata. Ad esempio è successo che qualche sindaco decidesse di far fare un mega resort di cemento armato e noi abbiamo detto non che va è incompatibile con l'idea, certo, di Legambiente. Senta, dottoressa Muro, nella Sardegna regna sovrana, 5 località, seguita dalla Puglia, poi la Campania, la Toscana, insomma la Sicilia arriva all'ottavo posto. Com'è possibile? Sicilia che è così bella. La Sicilia è molto bella, però ha un problema molto serio, come dicevo prima, di gestione. Abbiamo delle eccellenze anche lì, perché San Vito Lo Capo, Marina di Salina, sicuramente delle località eccellenti dal punto di vista della gestione. Però è ottava, È ottava perché la Sicilia non risolve un problema endemico che è quello della depurazione delle acque. Noi spessissimo abbiamo delle segnalazioni pressanti da parte dei turisti sulle condizioni delle coste igieniche. Ecco, invece tra le isole c'è Lampedusa che è continuamente a ribalta per gli sbarchi, ma è anche un posto stupendo di qualità. È un posto stupendo di cui noi dovremmo essere molto orgogliosi. Pensate che la spiaggia dei Conigli all'interno della riserva naturale è stata dichiarata la spiaggia più bella del mondo da TripAdvisor e lì si vede proprio che è possibile conciliare la bellezza della natura e in particolare lì è un luogo di nidificazione delle tartarughe con il turismo di massa. Lì vabbè, noi abbiamo avuto con TripAdvisor un po' di problemi, quindi io i giudizi di TripAdvisor li prendo con le molle. Senta, intanto, nonostante il disastro della Concordia, proprio l'isola del Giglio è tornata nella vostra classifica. Cos'è cambiato? Il fatto di aver portato via la nave ha migliorato la situazione? Sicuramente abbiamo avuto la soluzione di un problema, peraltro diciamo è stato risolto anche da un punto di vista ambientale, nel senso che lì il comune ha chiesto e ha ottenuto che vengano tolte tutte le strutture che sono state necessarie per quella straordinaria opera di recupero, e questo ci ha spinto a sostenere questo comune che sta cercando disperatamente di ritrovare una propria identità turistica e una vocazione aperta al mondo. Vorrebbero proprio cancellare quell'immagine e noi pensiamo che sia fondamentale sostenere. Ma le dico una cosa che può sembrare assurda: non aveva il suo fascino, anche se in qualche modo drammatico, quella nave lì rovesciata permanente? Non poteva diventare un monumento alla follia dell'uomo? Beh sì, solo che diciamo gli operatori turistici non erano molto d'accordo con questa immagine, da una parte. Sicuramente è servita a far conoscere l'isola del Giglio Accidenti. Al mondo. Devo dire che noi siamo stati anche orgogliosi dell'operazione di recupero che è stata fatta, anche quello da sicuramente va raccontata all'Italia. Noi l'abbiamo raccontato a minuto per minuto, una società di Ravenna che ha fatto un lavoro straordinario. Voi selezionate anche i migliori compressori turistici. Ecco, ma comprensorio cos'è? Il comprensorio è un'area vasta, ad esempio il Cilento, le Cinque Terre, cioè una dimensione extracomunale. È fondamentale che in Italia si passi da una cultura dei campanili a una cultura della sinergia tra comuni, cioè i comuni devono imparare che se il comune accanto lavora bene sul turismo, ci sarà un valore aggiunto anche per tutti. Loro stessi. Ma qual è il migliore quest'anno di comprensorio? Beh, c'è il Cilento sicuramente, il parco del Cilento che sta dando grandi soddisfazioni anche da un punto di vista delle produzioni enogastronomiche, dell'agricoltura di qualità. Ma c'è... In campagna, quindi è stato molto importante sottolineare che anche in campagna c'è una produzione eccellente. Senta, comunque ricevere le bandiere blu sicuramente è una grande pubblicità, un grande vantaggio per i gestori. Ricevete delle pressioni? Come si fa a restare indipendenti e spietati? Noi abbiamo fatto la comunità delle vele, c'è una riunione annuale dei sindaci delle Cinque Vele che insieme alla Lega Ambiente decidono i criteri e soprattutto i nuovi obiettivi da porsi collettivamente. Le Cinque Vele le dà la Lega Ambiente con il Touring Club, ma insomma c'è una grande discussione, un osservatorio in cui anche la Lega Ambiente viene messa in discussione dai sindaci stessi, e c'è appunto una collaborazione. Non siamo dei giudici, ma siamo dei compagni di strada. Senta, ma lamentele ce ne sono molte degli esclusi? Sì, però poi si capisce, il meccanismo è fatto proprio, diciamo, assegnazione da una vela a cinque vele. Questo aiuta molto i sindaci a capire che è un percorso che può essere fatto insieme. Certo. Ripeto, non è un giudizio, ma la Lega Ambiente si mette a disposizione insieme al Touring Club per individuare i punti di miglioramento. Ed è una grande soddisfazione veder salire una località da una a cinque vele. Senta, ma come funziona la famosa goletta verde? Come funziona? Goletta Verde è una campagna di comunicazione. Via terra viaggia un laboratorio mobile che si ferma nelle località, ci sono i biologi di Lega Ambiente che campionano appunto le acque di balneazione su segnalazione dei turisti, nel senso che noi abbiamo un servizio attivo, i cittadini ci segnalano dove andare a prendere le acque che loro ritengono sporche, perché quello che abbiamo anche detto negli ultimi anni è che noi non vogliamo sostituirci alle istituzioni. Naturalmente. Che fanno il loro lavoro. Voi segnalate. Noi segnaliamo e fungoliamo, perché è necessario continuare a difendere questa straordinaria risorsa. Senta, dottoressa Moroni, un'ultimissima domanda: ma lei va al mare solo dove ci sono le cinque vele? No, io vado al mare anche a scegliere, a diciamo scoprire nuove località. Vabbè, però l'ultima volta dove è andata l'ultima volta? Beh, l'ultima volta sono andata a Santa Marina Salina. E quest'anno dove va? A Favignana. Ah, benissimo, auguri, allora buone vacanze. Grazie. Arrivederci, grazie. Anche a voi. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Ecco, il mare è più bello d'Italia, ma intanto proprio sulle spiagge si gioca una partita molto importante dal punto di vista legislativo verso l'Europa e naturalmente economico. Il settore balneare deve fare ancora una volta i conti con la normativa europea. Se l'esito della sentenza dovesse essere quello che purtroppo ci aspettiamo, cioè un esito negativo, le concessioni sarebbero scadute a dicembre del 2015. Un'altra volta la grande onda che ritorna, luce rossa, squadra. Qui c'è una colpa gravissima, e va detto, dei governi. Sulla tavola. Sono anni che noi andiamo avanti con proroghe senza che si faccia una legge interpretativa seria. Quindi senza legge interpretativa, proroghe, un bel caos. Allora andiamo su una spiaggia a sentire uno dei tanti gestori di stabilimenti balneari a cui questa legge, se e quando arriverà, naturalmente cambierà completamente le cose, ma l'Europa ce lo chiede. Gian Domenico Campodonico dei Bagnifiori di Paraggi, che è una delle spiagge più esclusive della Liguria, tra Portofino e Santa Margherita. Signor Campodonico, da quanti anni lei ha la concessione dei Bagnifiori? Allora, posso dirle una cosa? Me la dica. Allora, la cosa è che il Corriere della Sera, sì, 3 anni fa, ha fatto un servizio sui bagni, sì, dell'Italia. Allora, io sono fra i 4 stabilimenti più importanti d'Italia. E da quando? Da quando ha la concessione? Da quanti anni? Noi la concessione dal 1927. 27, accidenti. Sì. Ma da allora a oggi come ha funzionato il rinnovo? È automatico il rinnovo della concessione? Il rinnovo della concessione, sì, è rinnovo, e ogni 5 anni bisognava rinnovarla. E quindi era praticamente automatico che venisse lei, tutto perché era la sua. Sì, tutto automatico. Senta, ma ai Bagni Fiore di Paraggi, appunto, così famosi, quanti lettini, quante cabine avete? Noi abbiamo diminuito un po' di cabine, sì, ne abbiamo 90, mentre prima ne avevamo 100. Poi abbiamo i lettini rispettivi per le cabine, e poi abbiamo eliminato abbastanza un po' di lettini, abbiamo eliminato... Ma e quanto, per esempio, quanto costano al giorno i lettini e le cabine? I lettini e le cabine sono nel periodo di luglio-agosto, sì, una cabina per 2 persone, cioè cabina, sì, due lettini, ombrellone, tavolino, sì, seggiola della seggiola. E quanto costano? La seggiola da, sì, per da sedersi, sedere. Sì. E abbiamo ci sono le spugne, sì, comprese, abbiamo wifi, abbiamo acqua gym. E quanto costano, me lo dice? Per 2 persone sono 100 euro al giorno. 100 euro al giorno, ma sì, è tanto o poco? Mi sembra tanto. Io direi che è un giusto come, sì, prezzo. Ma la concessione, allora mettiamola così, la concessione a lei quanto le costa all'anno? La concessione, guardi, in questo momento non lo so perché se ne occupa la segretaria. Sì, però so che sono basse i costi delle concessioni. Sì, noi non credo che sia una cifra pazza. Tipo 20.000 euro l'anno, robe così? Più o meno, però il guaio è che, capisce, quindi noi abbiamo... i guadagni sono alti, perché no, non sono alti, perché, come mai? Dice, perché ci sono gli studi di settore, no? Gli studi di settore stabiliscono una cifra, se lei non ha realizzato quella cifra che dice, lei deve o pagare, sì, la differenza, oppure ricorrere, e deve finire a Roma, sì, a Roma, se è il caso che lei ha perso, perde la causa, praticamente. D'accordo, deve versare, però raddoppiare la cifra. D'accordo, però obiettivamente se la concessione vale più o meno 13.000 euro l'anno, i lettini 100.000 euro, 100.000 ma euro non al sono giorno. 100.000 euro, ascolti, noi abbiamo dei tempi, dei giorni che fa brutto, non siamo come al sud noi, perciò, no, d'accordo. Perciò c'è magari 15 giorni che lei non lavora. Io ho fra dipendenti, animatore, la babysitter del giardino giochi, ho 15 persone. Insomma, ci rimette. Non è uno scherzo, non è uno scherzo. E poi investendo, io dal 2000 a adesso, io ho investito 1.000.000 qua dentro, sì, capito? Capito? E devo ancora ammortizzare 300.000 euro. Senta. E ancora oggi sto facendo lavori, sto facendo pavimentazione in resina per evitare il cemento. Ecco, io sono, senta, talmente ma fino che continuo ancora. Ho capito, signor Campodonico, però non credo che lei sia stupido, credo che lei sia intelligente. E che fa un lavoro ben fatto. Però fa un lavoro ben fatto. Io penso che lei fa il suo lavoro, sì. Nel suo lavoro lei ci crede. Sì. Io ci ho creduto nel mio fatto lavoro. Bene. Ha capito? Ha fatto io ci ho creduto. Ancora oggi do al mio lavoro. Il risultato quale sarà? Che mi danno un calcio in culo? No, non mi pare, non mi pare. Credo che non sia questa la prospettiva. Senta, certo. Ma fino a quando le spetterebbe intanto tenere la sua concessione? Questo è un dato certo. Dovrebbe andare fino al 2020, fino però al 2020. Adesso pare che viene anticipata la diciamo la scadenza, dice la scadenza. L'asta dovrebbe essere anticipata. Ma se ci fosse l'asta lei concorrerebbe, che fino adesso non l'ha fatta l'asta. Ma io non voglio concorrere. No. Da quanti anni ho io? Ho 76 anni. Ah, vabbè, io allora va in pensione, va bene. Dal mattino alle 6 fino alla sera alle 8 faccio una sosta di 2 ore. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666. L'SMS, insomma, Mario, 20.000 euro però per una concessione, considerati anche tutti i costi, insomma, mi pare che si può guadagnare bene. Beh, a mi gestire pare che... questi stabilimenti. La prova è che nessuno rinuncia. Ecco, no? Appunto, cioè, soprattutto senza gara. No, cioè, ho visto che Lega Ambiente da Sicilia, ottava, la considera, la considera poco, Pietrangelo. Come mai? Com'è sta storia? Col mare meraviglioso non mettete i depuratori? Cos'è? Lì quanto costa un lettino da voi? Guarda, già è complicato andare in Sicilia. È molto più facile per un cittadino della Repubblica Italiana prendere un aereo e andare alle Baleari piuttosto che andare in Sicilia. È una polemica antica contro le compagnie aeree che praticano dei prezzi e delle tariffe proprio da puro strozzinaggio. Insomma, ci vai al mare tu? Guarda, io posso dire una cosa. Preferisci la montagna? No, no, io sono un animale di campagna, però vorrei dare un consiglio ai nostri ascoltatori. E così anche si evita il problema dei costi, dei lidi. Allora, vi consiglio la scala dei Turchi, che si trova tra Realmonte e Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. La scala dei Turchi è un costone meraviglioso, abbagliante, proprio di bianco calcare. Lo si può godere soprattutto nelle notti di luna piena, è uno spettacolo al unico. Al mare niente, insomma, fa un bagno niente. Il bagno è proprio perché il vero signore non si pone il problema di andare nel lido, ma è sufficiente un telo e uno scoglio. Certo, allora, vi consiglio la scala dei Turchi, ma vorrei fare un avviso ai cretini. Non staccate i pezzi di costone, perché ci sono alcuni scemi che se lo grattano addosso convinti di che farne che cosa, lo stanno massacrando. È un posto meraviglioso. Come la pomice lì, per insomma. Sì, pensano sia pomice, non lo so. Purtroppo, sai, delle idee cretine prendono il passo ogni tanto. Poi, se tu mi chiedi, ma come mai la Sicilia è all'ottavo posto? Come mai? Dai. Perché c'è un... Perché? Perché intanto il sistema di autonomia regionale che affida quel patrimonio meraviglioso a degli assessorati ridicoli... Perché è inaudito, con tutto il rispetto per la Riviera Romagnola. Ma dico, come si può mettere a confronto, con tutto il rispetto, la Riviera Romagnola con una meraviglia come San Vito Lo Capo, come Taormina, come Cefalù? Come è possibile che lì nessuno va a villeggiare? Perché c'è l'autonomia. Perché non esistono le strade. Perché non esistono le strade. Perché gli aeroporti sono al collasso. Perché soprattutto c'è uno strozzinaggio perpetrato e le compagnie aeree sono le prime responsabili. Posso dare un consiglio? Io sono sintetico. Isarutas, Cabras, una spiaggia di quarzo. Ah, cioè ognuno vende la sua. Io dico Filicudi, andate a Filicudi. Intanto sono circa 8.000 chilometri delle coste italiane, isole comprese. Di questi 8.000, circa la metà sono idonee per fare i bagni. In poche parole, 4.000 chilometri sono di spiaggia. Su queste spiagge si sta giocando un braccio di ferro importante tra l'Italia e l'Unione Europea, che ha come oggetto del contendere il prolungamento al 2020 delle licenze demaniali senza gare, quello di cui abbiamo parlato finora per fare gli stabilimenti. Chi se ne occupa nel governo? Enrico Zanetti è il vice ministro dell'economia e della finanza e il segretario di scelta civica. Ecco, onorevole Zanetti, perché svendiamo il litorale? Credo che si possa parlare di svendita del litorale, è vero però che abbiamo bisogno di un riordino radicale di una materia che in questo momento si è stratificata negli anni, nelle norme che si sono susseguite, in alcuni casi determinano anche delle forti incoerenze tra chi in alcuni casi paga anche troppo e chi troppo poco. Ecco, però la norma attuale estende le licenze fino al 2020 e secondo l'Unione Europea è contraria al diritto europeo. Insomma, abbiamo una procedura di infrazione in arrivo? L'infrazione non ci sarà proprio perché vi è l'intenzione di adeguarsi a quelli che saranno i canoni della sentenza e si sta anche attendendo di leggerla, manca poco, proprio per fare una normativa che sia rispondente a criteri di trasparenza e di concorrenza che per troppo tempo su questo fronte nel nostro paese non ci sono stati disattenti. Non ci sono, ecco, però nell'ultima finanziaria avete scritto che ci sarebbe stata questa legge, però non c'è ancora, perché? Proprio perché ormai siamo nei tempi, è questione probabilmente di settimane, è opportuno aspettare la sentenza e fare qualcosa che sia al meglio coerente anche a ciò che viene richiesto a livello comunitario. Sì, onorevole Zanetti, i numeri sono questi, però circa 30.000 imprese concessionarie che si dividono gli 8.000 chilometri del litorale italiano, di questi solo il 53% è balneabile, ogni 350 metri più o meno c'è uno stabilimento privato, che è un business da decine di milioni di euro, perché lo Stato e i comuni invece incassano pochissimo? No, lo Stato e i comuni, la questione se incassano poco o tanto, incassano sicuramente male sia per quanto riguarda le procedure che vedono in questo momento disallineamenti tra gli enti interessati che sono l'ideale per metterci in mezzo illusioni e magari sfuggire al pagamento, e d'altro canto perché, come già dicevamo, ci sono metodi di calcolo dei canoni in alcuni casi non comprensibili. Su questo fronte bisogna fare un riordino significativo. Beh, molto, perché la Corte di Giustizia Europea dice che nessun rinnovo automatico, invece i rinnovi sono quasi tutti automatici, nessuna proroga ulteriore a favore dei privati, però le gare non ci sono. Quando ci saranno queste gare? Con la nuova normativa ci saranno, è chiaro che sarà previsto anche un adeguato periodo transitorio che non è una proroga ma è un tempo necessario sia appunto per impostare le gare sia per dare modo di organizzarsi in un contesto in cui appunto cambia il mondo ed è giusto che cambi. Sì, ma la data di scadenza delle concessioni è il 2020, ci saranno prima le gare oppure no? Prima del 2020 ci sarà la normativa che prevederà, come dicevamo, anche un periodo transitorio necessario proprio anche per impostare gare, che non è banale nell'istante in cui, come ricordava, riguardano oltre 30.000 imprese, quindi 30.000 concessioni. Quindi prima del 2020, se capisco, sostanzialmente non si interverrà. Dobbiamo vedere il modo migliore di procedere, non c'è nessuna volontà di perseguire ancora logiche semplicemente di proroga, logiche che non consentano di introdurre criteri di trasparenza e di concorrenza, però dobbiamo farlo nemmeno avendo come obiettivo quello di dare un segnale che poi concretamente non funziona. 30.000 sì. Gare, 30.000 concessioni devono essere gestite. Sì, certo, però insomma l'impressione che il governo più che altro stia cercando di prendere tempo con l'Europa per evitare questa procedura di infrazione. Più che sicuramente, vi sono sicuramente visioni molteplici, c'è sì. Certamente chi magari è meno incline a considerare la concorrenza come un'occasione di sviluppo, per quanto riguarda il sottoscritto naturalmente non solo, invece vi è la profonda convinzione che questa sia un'occasione da cogliere, certo senza penalizzare chi ha investito e chi giustamente, se esce da una concessione, deve vedere riconosciuto l'avviamento che ha generato. Sì, ma chi ha investito sta più o meno in una situazione di questo genere. Un gestore paga intorno ai 15-20 mila euro media, insomma grosso modo la media, l'anno, e ne incassa quasi 10 volte tanto senza avere la concessione a gara. Insomma, avrà fatto investimenti, ma insomma investimenti che hanno reso molto nel tempo. Beh, in realtà questo è un dato che magari risponde a logiche di media. In verità, essere ad esempio, che ne so, in zone come Viareggio piuttosto che in alcune zone sperdute della Calabria significa avere dei rendimenti molto diversi. Serve un sistema di canoni più coerente. Va bene, quindi noi aspetteremo, mi pare di capire, il 2020 per avere una regolamentazione vera. No, no, la regolamentazione l'avremo in tempi brevissimi. Servirà poi un adeguato periodo transitorio che consenta a regime di attuarla. Insomma, vedremo se non si va a finire al 2020 comunque col periodo transitorio. Molti ci scrivono, Giorgio, per tutti, che però loro in Sicilia ci vanno lo stesso, anche se è difficile, complicato, ma è talmente bella che ci vanno. E Ilaria invece ci dice, vabbè, la Romagna sarà come sarà, ma i romagnoli si danno da fare e non si piangono, piangono addosso, e quindi la Romagna funziona. Abbiamo Rita da Lecce, che cosa... Rita, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, mi dica. Allora, io parlo della mia esperienza personale. Io sono stata per più di 20 anni in Liguria e ho deciso a un certo punto, qualche anno fa, che non ci sarei più andata nonostante la vicinanza. Perché? Allora, esiste una netta differenza nel trattamento di questi, nelle zone balneari, chiaramente d'Italia. Io sono pugliese. Sì. E arrivavo a spendere 30 euro per fare una sosta in spiaggia di 1 ora e mezza. Sì. Avevo il pancione, mi veniva detto che nemmeno potevo stare a riva. Ti fanno pagare gli ombrelloni in base all'inclinazione del sole, oltre che alla fila, che vabbè, sarebbe a Liguria. Ecco. Allora, a questo punto io genovesi sono famosi. Uno vuole pagare. Ha preferito tornare a Lecce, insomma, al mare. No, guardi, tra l'altro è bellissimo il mare. Io mi faccio con 3 figli chilometri in macchina per trovare non solo dei servizi altrettanto adeguati alla metà del prezzo, ma un atteggiamento che questi non conoscono, perché loro hanno... Vabbè, ho capito, in Liguria è andata male, un'esperienza negativa. No, voglio soltanto dire che è giusto, come dire, che a un certo punto i costi siano paragonabili e siano adeguati. Certo, e infatti dovrebbe capitare dopo l'applicazione in Italia della direttiva europea. Questa volta però... La canzone la scelgo io, una che mi piace molto. No, sì. Aspetti, che allaccio le cinture. Vai, dai, sì. Sentiamo. Dai. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me. Sapore di sale. Vabbè, insomma, oggi mi sono esibito io. 800 24 00 24, classicone fantastico. 349 238 6666, l'SMS è un classicone eterno proprio. Certo. Vabbè. Non ho niente da dire. No, perché sentivo, sai, poi tutti questi rock metallari. Pubblici. Mix 24. Allora, Pietrangelo, dove andiamo oggi? Che ci fai sentire? Andiamo un attimo. This is our last goodbye. I hate to feel the love between us die. But it's over. Just hear this and then I'll go. You gave me more to live for, more than you'll ever know. E allora il tuffo che tutto cambia è quello nel fiume, dove tutto davvero scorre e non è mai la stessa acqua, ed è il tuffo che lava i baci senza desiderio, i baci senza sogno, i baci fatti di solo addio, e non sono un arrivederci, neppure quella di una voce ormai crudele nel rimbombo della mente. E questo mi ha detto Calypso, che ha chiamato stamattina, ho raccolto io la telefonata dal centralino, ha detto questo e ha voluto questo brano da dedicare a Ulisse. È come si dice? Vabbè, baci senza amore, va via tutto. Mitologico. Questo. No, questo fiume tremendo. Vorrei consentire, non mitologico. Epico, epico, epico lui. Sta attento come parli, ma per me è mitologico. Non vorrei mai fare una trasmissione da solo con lui. Con lui, guarda, pericolosissimo. Immagini, diventa una cosa tremenda. Fammi una bolla, Mario. Matita rossa e blu. Vai. Non un po' è da spiaggia, un pochino sembra un po' di salsa, spiaggia ligure, un po' di salsa, un po' di merengue, cosa c'è sopra? Che dici? Vai là, una balla. Vabbè, Jack Radix, No Matter. Allora ragazzi, il Brexit è sulla carta e non solo. Ieri abbiamo dato abbiamo letto conto il Sun, del Sun, molto divertente tra l'altro, che si è schierato per l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Ricordo che il Sun è di Rupert Murdoch e anche Fox. Sì, anche, certamente. E oggi è il turno dello Spectator, che è un nobile giornale inglese, il Financial che dice bisogna uscire. Il Financial Times è per restare, e così anche naturalmente il New Statement. Rappresenta l'interesse della City. Esatto, mentre il New Statement è l'interesse della sinistra inglese, diciamo, illuminata, blediana, sì. Ex, quella che è corbeniana, decidete voi. E fin qui la battaglia sulla carta. Quella politica invece ha avuto un picco ieri e oggi ancora di più, quando George Osborne, il cancelliere dello scacchiere, ha detto che il buco che provocherà l'eventuale Brexit, uscita quindi dall'Unione Europea da parte del Regno Unito, sarà di 30 miliardi di sterline. La cosa, ovviamente potete immaginare, si è tradotta subito nell'annuncio di un piano di austerità ulteriore nel caso appunto si arrivasse a questa decisione nel referendum. I sostenitori del leave, cioè dell'andare via, dicono che questa è una sorta di punizione preventiva. E stamattina è comparsa una lettera sul Telegraph e un appello firmato da oltre 60 deputati dei Tories, cioè dei conservatori, che dicono che Osborne è inadatto e se ne deve andare. Che cosa succederà? Lo sapremo, oramai Osborne, siamo arrivati. Osborne resta e forse pare, sembra, ma non è detto fino all'ultimo, il Regno Unito invece se ne va. Vediamo. Queste sono le proiezioni. Per oggi ho visto che c'erano una discussione sui sondaggi, se erano sondaggi telefonici oppure sondaggi online, quelli che valgono di più, quelli che valgono di meno. Vabbè, vediamo, saremo a vedere. Tanto Salamino. Spifferi e corridoi, caro Giovanni, caro Mario, più che Brezhnev e Cupiello. Cuore ingrato, Silvio Berlusconi supera felicemente l'intervento a cuore aperto, tanti auguri, i figli stretti intorno a lui lo sottraggono al cerchio magico e il saggio Gianni Letta, collaborato da Niccolò Ghedini, assurge al ruolo di commissario straordinario di Forza Italia. Quando mai aveva smesso? No, ma mi chiedo, mai stato iscritto, vabbè. Però commissaria, il commissario viene da come fuori, si suol dai, dire, viene da fuori il commissario. Per tenere, lontano i carabinieri è sempre meglio avere un commissario. Giusto. Più che Brezhnev, dunque, l'inamovibile Cremlino, che nel punto massimo di granitica immobilità del socialismo reale, quando il capo dei soviet si ammale non arrivano notizie da Mosca, invece è appunto Luca Cupiello, quel Berlusconi degente sul letto, protetto dal perimetro dei parenti. Silvio è ormai fuori dalla sedazione e però a rischio sedizioni. Non sa ancora come il partito, dove per anni ha vissuto da re felice, è una corrida dove toro mata toro, proprio come nella commedia di Edoardo De Filippo, dove il risveglio non può che portare a una rivelazione. Te viaggi? Il presepio che è una cosa religiosa. Non mi piace, caccia fa, non, ecco, mi piace. Non insomma, mi piace. Lui può tornare a fare politica, dicono i medici, ma è presepe però, diciamolo, che non piace a nessuno. Tra i pastorelli, le pecorelle, i mugnai di quello che fu Forza Italia è guerra. Guerra totale. Angelo protettore della capannina, quella approntata al San Raffaele di Milano, chi è? È Marina, Marina Berlusconi, la figlia primogenito del cavaliere, che ha messo nel mirino Maria Rosaria Rossi, tesoriera del partito, fino a pochi giorni fa padrona assoluta della giornata del dottor Silvio, sottoposto agli strapazzi pur di assecondare i capricci del cerchio magico. Mario, pensa tu, no, lo trascinavano, lo trascinavano nell'accaldata Aversa, dove il candidato di fiducia del suddetto cerchio ha totalizzato 26 voti, e non per esempio, caro Giovanni, a Milano, dove Berlusconi con Stefano Parisi può ben vincere. Spifferi e corridoi dunque. Berlusconi si sveglia e trova lo svolazzo di stracci intorno a sé. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso, cos'è stata questa goccia? Da una lacrima sul viso. Questo è Bobby Solo, che c'è? È stata la lacrima, è stata la lacrima di Francesca Pascal, appunto, la foto che tutti abbiamo visto, su cui tutti abbiamo fatto delle interpretazioni, perché Francesca Pascal, padroncina di Dudu, che è il celeberrimo cagnetto, nonché fidanzata del cavaliere, piange a favore di paparazzi. Ora, la povera ragazza si ritrova ai margini di una Valpurga nordica, giusto lei, ma Marina non ha alzato le strida di Brianza, no! Non ha sciolto le trecce vichinghe, no! Piuttosto, pur essendo Valchiria, ha concluso Giovanni, pur essendo Valchiria con tanto d'elmo, ha concluso così! Cioè, l'ha detto in napoletano, ma, e si sono capiti. Si sono capite. 800240024, il numero verde 349-238-6666, l'SMS è pubblicità. Mix 24. Leggendo questi ultimi giorni alcuni giornali italiani, io sono stato piuttosto sorpreso dall'interesse che voi avete verso di me, interesse che, come vedo, c'è. Io subito vi voglio svelare un gran segreto. Io non ho mai, non, ma dico mai, lavorato alla bomba atomica, alla bomba all'idrogeno, altre bombe, né in Occidente, né in Russia, né in Cina, né altrove. Così Bruno Pontecorvo in un'affollata conferenza stampa il 6 settembre del 78, il fisico italiano, scopritore dei neutrini, inafferrabili particelle emesse nei fenomeni radioattivi, ritorna in Italia dopo 28 anni. La sua fuga in Unione Sovietica all'alba della Guerra Fredda fa scalpore nel mondo politico e diventa un giallo internazionale. Perché il più giovane dei ragazzi di Via Panisperna, lo scienziato nucleare di fama mondiale, abbandona il suo paese? Per i pochi denigratori è una spia al soldo del Cremlino, per tutti gli altri un geniale ricercatore e uno stratega intelligente. Le campane del Cremlino, la fuga di Bruno Pontecorvo, lo scienziato che sceglie l'Unione Sovietica, polemiche, dubbi, rivelazioni e misteri. PMX 24, il giallo della storia, dopo il giornale radio. Mario, c'è ancora una bolla? Sì, rapida come un treno. En France, non a caso. Questo è Brigitte. Battez-vous. Allora, per chi ha facoltà, per chi è facoltoso, soprattutto, molto facoltoso, per chi ha tempo, Molto tempo. Per chi ha l'amore, vabbè, per chi ha... Allora, cosa capita? Dopo cosa 4 anni di lavori, un investimento da 200 milioni di dollari o di euro, insomma, riapre il Ritz a Parigi, è grande albergo in tutto il suo splendore, facciata della fine del 700, 1792, arredamento che vanta 274 candelabri, 1295 dipinti, 178 orologi. È un posto meraviglioso dove passare un fine settimana, ci andrei volentieri come molti di voi, ma come molti di voi per me c'è un problema. Che problema è? Non me lo posso permettere. Perché? 1200 euro al notte. Vabbè, allora, niente Ritz, lasciamo tanto stare... c'è la ripresa Mario, no? Ma lasciamo stare Ritz, andiamo col canzoniere, ma arriva. Dovevo dire qualcosa a qualcuno, ma non so più cosa e a chi, l'ho scordato. Dovevo anche dare qualcosa, una parola saggia, un dono, un bacio. Ho rimandato da un giorno all'altro, mi scusi, provvederò nel poco tempo che resta. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS, e con il professor Roberto Bernabei come sempre commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Journals of Gerontology, aprile 2016. Associazione tra attività fisica a 50 anni e sintomi depressivi successivamente. Tante volte abbiamo parlato di attività fisica e dei straordinari benefici, fino a dire che qualcuno sosteneva che se fosse comprimibile in una pillola, l'esercizio fisico sarebbe la pillola più venduta al mondo. In questo studio si vede cosa fa l'attività fisica nella depressione nelle età successive, cioè chi è che faceva attività fisica intorno ai 50 anni, cosa succedeva nei 25 anni successivi. Sono state studiate quindi una popolazione di islandesi, sono stati studiati appunto per 25 anni a partire da metà vita, intorno appunto ai 50 anni, erano quasi 6.000 soggetti, e si è visto cosa succedeva misurando il livello di depressione in questi 25 anni. Chi era attivo intorno ai 50 anni aveva meno depressione negli anni successivi. Anche qui l'avrei detto senza saperlo anch'io, che l'attività fisica fa anche questo, ma vederlo scritto e vederlo provato, sia pur in una popolazione di islandesi, ci fa dire che il beneficio dell'attività fisica è estendibile anche al nostro tono dell'umore, quindi nessuno si può permettere di non farla. Bene, per chiudere, Gloria Guerriera, cosa ha scelto oggi? Sai quando ti prende una certa nostalgia, non sai nemmeno di che cosa, forse è la stagione. Beh, in quel caso ricordati di Chihuahua, Mina. Se lungo il tempo che